L'aumento dello scontro militare tra i repubblichini e i compagni ormai portava alla guerra nelle strade. Nei primi giorni di gennaio erano stati uccisi un sottotenente della polizia repubblicana vicino a Piazza Rivoli e il capo della fanfara della GNR in Corso Dante. 10 giorni dopo le SAP di Borgo San Paolo avevano disarmato una squadra di fascisti dei RAP ferendone uno. La questura organizzò in risposta un rastrellamento per il borgo che finì con una sparatoria in cui persero la vita anche dei civili. Iniziò così una caccia all'uomo, casa per casa, cortile per cortile, che durò 3 giorni, portando a più di 100 arresti. Quella mattina c'erano 20 centimetri di neve sui marciapiedi. Stavo girando da una via all'altra per informare i compagni sui movimenti dei reparti, quando di colpo sentii esplodere 2 raffiche di mitra. Corsi fino all'angolo tra Corso Racconigi e via Monginevro, dove un cordone di repubblichini teneva la gente a distanza mentre arrivava il tram dalla rimessa di Corso Trapani. Cercai di divincolarmi, ma venni preso per i vestiti e per i capelli. Guarda, guarda che fine fanno i traditori. Tarzan era della squadra di Eugenio. Aveva combattuto con la Garibaldi nelle valli di Lanzo e da qualche mese, sopravvissuta ai terrificanti rastrellamenti dell'autunno, era tornato in città per colpire i fascisti e i tedeschi nel loro covo più sicuro. L'avevo conosciuto appena uscito dalla generale e mi era sembrato da subito un compagno generoso e coraggioso, timido a volte. Ora era a terra, in fin di vita, ferito alle gambe e alla schiena. I militi fermarono il tram, obbligando tutti a guardare. Poi alcune madri riuscirono a forzare il blocco per portare dell'acqua calda che sciogliesse la neve e desse un po' di conforto al moribondo. I fascisti le fermarono, presero le brocche e le spaccarono a terra. Tutti dovevamo vederlo soffrire, muoversi agonizzante, fino alla fine. Arrivarono altre donne con altra acqua. Presi una brocca e corsi verso il corpo del compagno e amico, in mano agli aguzzini. Quella volta non mi fermarono, mi misi in ginocchio al suo fianco e gli pulii il volto. Poi rovesciai l'acqua vicino al collo e sui fianchi. Mentre la neve si fondeva con il sangue, lui, senza riuscire ad alzare la testa, mi sorrise, appena prima che i fascisti mi trascinassero oltre il cordone. Dopo più di un'ora, visto che non moriva, lo caricarono su un furgone e lo portarono via. Eugenio Giaretti, nome di battaglia Tarzan, portato all'ospedale Mauriziano per le ferite subite durante il rastrellamento in corso Racconigi, venne prelevato dai fascisti e lasciato per una settimana in una stanza d'albergo, senza cure, dove si spense l'ultimo giorno di gennaio del 1945. Dopo 3 giorni alla Mirafiori si facevano ronde per stanare i cecchini e catturare i pochi fascisti che non erano scappati. Uno l'avevamo beccato in corso Racconigi, all'angolo con via Monginevro, dove avevano ammazzato Tarzan. Dal secondo piano aveva sparato con il fucile, con la canna per metà fuori. Ci saranno state 100 persone, perché si era fermato un camion carico di partigiani. Poldo era uscito con un fiasco di vino e si festeggiava. Tutti in San Paolo lo conoscevamo come un fascista della prima ora e una spia. Per più di 20 anni aveva sfoggiato dal balcone una bandiera con il fascio tanto grande che quasi toccava quello del piano di sotto. Non c'era corteo fascista a cui non partecipasse ed era il terrore delle famiglie del palazzo per il controllo e le delazioni. Con lui i fascisti andavano a colpo sicuro quando arrestavano e durante le retate e gli arresti lui non si faceva vedere, mai. Salimmo le scale di corsa e lo trovammo ancora a fianco della finestra che ci guardava con il fucile in mano. Non capivamo perché non lo usasse ora. Un partigiano con i nervi più saldi dei nostri impedì che lo buttassimo giù dalla finestra. In strada venne coperto di insulti, calci e sputi, dalla folla inferocita che voleva linciarlo, ma i partigiani lo difesero, scortandolo fino alla lancia. Preso con l'arma ancora calda in mano, impiegarono poco a condannarlo. Con lui davanti percorremmo le strade fin sotto la finestra da cui aveva sparato. «Leggi!» era il cartello appena appoggiato al muro dell'incrocio. «Leggi!» «Al martire dell'eterna libertà, Giaretti Eugenio, partigiano...» La scarica di mitra lo buttò contro il muro.